verde che calchi questo verde colle. Paventarsi tra lo starmire eterno, di un bisbiglio di voci giovanili. Ascolta Italia, libertà, onore Italia, libertà, onore Italia, libertà, onore. Quei che in questi monti fecero con loro vita barriera contro dove ci oppresso. Brigata proletaria d'urto, brigata proletaria d'urto, brigata proletaria d'urto, brigata proletaria d'urto. Cammino in un verde colle, sono il silenzio, rupe antica, case abbandonate, eoni sacri, morte giovanile. O voi che passate, non preoccupate, che udite giovani voce. Sono i giovani ribelli, partigiani liberi. Brigata capriotti, troppi ragazzi morti silenzio. Brigata capriotti, troppi ragazzi morti nel silenzio. Brigata proletaria d'urto, brigata proletaria d'urto, brigata proletaria d'urto, brigata proletaria d'urto.